Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, è domenica 27 aprile 2014, la 173esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinci. Makes me sweat. I'm lonely. Breve sommario della puntata di oggi. Per cominciare vi proponiamo un'altra puntata della rubrica Resistiamo Animali, in collaborazione con il blog Resistenza Animale, storie di fughe e ribellioni. Sono storie che vedono gli animali protagonisti della lotta per la liberazione. È la storia stavolta di una mucca che, evadendo dal macello, tenta con una fuga di far sentire la sua voce, gridando di non voler morire. Per l'attualità, Lorenzo Guadagnucci commenterà una riforma del codice francese che cambia lo status degli animali, assegnando loro dei diritti, quindi avvicinandoli più a cittadini che ad oggetti. Si tratta di una importante rivoluzione semantica, filosofica, morale e scientifica. Continuano all'aeroporto di Linate i presidi contro KLM Air France, la linea aerea che insiste a trasportare i primati destinati alla vivisezione, nonostante una grande mobilitazione contro questa pratica, mobilitazione che ha convinto tantissime altre compagnie aeree a cessare questo tipo di servizio, in quanto venivano colpite dalla campagna di boicottaggio che rischiava di rovinare la loro immagine pubblica. La nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha intervistato i protagonisti di uno di questi presidi. Da Facebook poi abbiamo appreso che in via Giampaolo Orsini a Firenze ha aperto una creperie vegana, il cui simpatico nome è Crepapelle. Per la rubrica Il Pasto Gentile siamo andati a intervistare Sara, Paola e Pixel, i tre protagonisti di questa nuova e lodevole esperienza imprenditoriale cruelty free. Infine, per la rubrica letteraria Perle agli umani, Lorenzo Guadagnucci ci proporrà un testo di Aldo Capitini. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Per le pagine della cronaca locale è stata solo una mucca di cupra montana. Il grosso esemplare bovino, l'hanno anche definita, cercando di privarla ulteriormente di quell'identità più volte negata. Eppure, la stessa cronaca non è riuscita a negare l'evidenza. L'animale, dice, evidentemente non si rassegnava alla macellazione ed è scappato dal mattatoio comunale di Via De Gasperi. Non si rassegnava, ed è qui che si arriva ad ammettere una volontà, un pensiero. Quella volontà che le ha dato la forza di ribellarsi e di trovare una via di fuga da quel luogo al quale l'avevano forzatamente destinata. Nelle immagini del video, dove il dramma della vicenda viene sminuito da una triste musichetta da corrida, la si vede camminare smarrita tra le auto, con lo sguardo alla ricerca di una salvezza e che si perde per un attimo al di là della recinzione, dove può ammirare, probabilmente per la prima volta nella sua breve vita, la bellezza di un prato nel parco che può solo vedere da lontano. Il prato, la sua salvezza irraggiungibile da una parte. Dall'altra, i suoi aguzzini tronfi nell'inseguimento come a caccia di una preda. E a quel bivio lei si ferma, consapevole che il suo istante di libertà durato solo mezz'ora è definitivamente terminato. Ma nonostante l'epilogo tragico, da quell'attimo in poi comunque qualcosa è cambiato. Ora sarà una ribelle evasa, una fuggiasca dal carcere del mattatoio, non più solo una mucca di cupra montana. Questa storia è una storia anonima, verrebbe da dire la storia di un numero che però equivale sempre a zero sul piano dell'esistenza, la storia di qualcuno che dalla nascita era già uno scempio di carni, anzi già da prima, quando il toro e la mucca vengono violentati, il primo per rubargli il seme e la seconda per imporle una gravidanza forzata, solo incubatrice vivente. Tutto ripetuto milioni e milioni di volte, secondo una prassi sempre uguale, quella dello sterminio per moltiplicazione. Accade però, e spesso, che questi numeri si ribellino, riescono a scappare dai furgoni sui quali sono spinti e stipati, riescono a fuggire dalle condotte forzate dei corridoi della morte, dei macelli, che sono tanto stretti in modo tale che gli animali non possano girarsi. Capita che riescano a trovare la forza per divincolarsi e per evadere da quei non luoghi che sono i macelli, che vengono costruiti lontano dall'abitato e affinché non si veda e non si sentano i suoni dello scempio. La mucca di questa storia è una di questi ribelli, è riuscita a fuggire dal mattatoio, si è trovata in strada a correre sull'asfalto fra le auto. C'è un video della sua fuga che si può vedere sul blog resistenzaanimale.noblogs.org e lì la si vede frastornata, spaventata, si capisce che non sa dove andare. Poi si ferma. A lato della strada c'è un prato e lei lo guarda. Questo è un momento struggente perché c'è una barriera sottilissima, una rete che la separa da ciò che la attira, il profumo di terra, dell'erba, e lei non ci può andare, lo capisce subito. Si gira e dietro c'è l'addetto del macello con un arnese in mano per catturarla. Ecco, in questa impossibilità di andare nella direzione giusta, mentre lo spazio si stringe tra lei e il suo aguzzino, esplode un'ingiustizia infinita, esplode tutta la violenza di questo mondo sugli inermi che devono subire le prevaricazioni dei più forti. Ed è lei a raccontarla, è stata lei a farla emergere con la sua reazione, col suo ribellarsi, con la sua evasione. Mi vorrei soffermare su questo momento dell'evasione dal macello che è un ingranaggio saltato nella macchina mostruosa della produzione della carne. È come un tempo sospeso, uno spazio parallelo, un fermo immagine all'interno di un copione ben consolidato. È proprio la mucca ad aver creato l'intoppo, aver guastato questo meccanismo inesorabile. Quella che già da prima della nascita era solo una bistecca rivela di essere qualcuno, sta cambiando la trama del film visto un'infinità di volte, quella che era solo una vittima passiva ora è la protagonista attiva che ha cambiato la storia, ci ha inserito un nuovo capitolo imprevisto. Ma viene da chiedersi qual è la reazione degli altri protagonisti umani di fronte a questo ribaltamento di ruoli, di fronte al manifestarsi di un'alterità che si sta autodeterminando attraverso la propria evasione, che sta opponendo una propria volontà ben precisa alle intenzioni altrui nei suoi confronti. E il fatto è diventato evidente, la bistecca è un qualcuno e per averla non si tratta di seguire la solita procedura. È richiesta una violenza maggiore perché la vittima non è passiva di fronte alla propria morte, anche se non sa bene cosa l'aspetta, sta cercando di difendersi. La storia prosegue con una scena di caccia, di rodeo o di corrida, così almeno viene raccontata dai giornali e da chi ha montato il video, che ha anche scelto una musichetta da corrida come sottofondo. Ecco che l'umano si rimette subito al centro in qualità di cacciatore e alla mucca viene negato il ruolo attivo che si è conquistata. La mucca è la preda oggetto, viene catturata e riportata nel macello. Così l'umano aggiusta velocemente l'ingranaggio spezzato dalla mucca e fa ripartire il film con la trama che solo a lui è dato scrivere. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Di solito quando si prende l'aereo si pensa che gli unici compagni di viaggio siano i passeggeri che siedono all'interno del velivolo. Tutto al più qualche cane magari costretto a restare nella stiva perché non può viaggiare in cabina. A nessuno potrebbe venire in mente di condividere il viaggio con decine, centinaia di animali ingabbiati per ore per raggiungere i laboratori di vivisezione. Eppure questo accade sui voli gestiti da Air France KLM, una delle poche compagnie aeree ancora legate a doppio filo all'industria della sperimentazione animale. Sono migliaia i macachi catturati nelle foreste e costretti a lunghi viaggi aerei per essere poi smistati in tutto il mondo. Già molte compagnie aeree hanno ceduto alla pressione delle proteste, ma Air France KLM continua a essere la principale via di trasporto aereo di animali destinati ai laboratori di vivisezione. Per questa ragione, uno degli ultimi obiettivi della campagna internazionale di pressione Gateway to Hell, molto intensa nelle ultime settimane, è stata proprio Air France KLM. A Milano, alcuni attivisti del gruppo La Lepre e di Liberazione Animale Genova hanno protestato contro questa compagnia aerea all'aeroporto di Linate con un presidio informativo. Sentiamo un attivista del gruppo Liberazione Animale Genova. Siamo all'aeroporto di Linate, agli arrivi, e oggi c'è una protesta organizzata dal gruppo La Lepre e da Liberazione Animale Genova. Sono qui con un attivista del Liberazione Animale Genova, al quale chiediamo perché siete qua oggi e se questa protesta fa parte di un coordinamento internazionale europeo. Siamo qui oggi per protestare contro Air France KLM, che è la prima azienda al mondo nel trasporto di animali per i laboratori di vivisezione, e in questo momento è in corso una settimana di azione internazionale contro questa azienda promossa dalla campagna Gateway to Hell, che è una campagna internazionale che si concentra appunto nell'ostacolare l'industria della vivisezione attaccando nell'aspetto logistico, cioè andando a protestare quelle aziende aeree che sono direttamente responsabili del trasporto di animali verso i laboratori di vivisezione, ed Air France KLM è la prima di queste. In particolare, che cosa fa Air France KLM? Vuoi spiegarci perché è tra le principali? Air France KLM è responsabile della deportazione di questi principalmente dei primati, trasporta qualsiasi specie animale, ma in particolare è fondamentale bloccarli perché rappresentano una linea di passaggio per tutti quei primati non umani che vengono catturati ancora, ad esempio in zone del sud-est asiatico, in moltissimi altri paesi del sud del mondo dove questi animali vivono ancora selvaggi, in stato di libertà, vengono catturati, rinchiusi in dei centri, negli allevamenti, portati in Europa oppure in Nord America, dove passeranno mesi piuttosto che anni in altri allevamenti, in centri di allevamento, dove poi verranno venduti ai laboratori di ricerca. Bloccare Air France KLM significa bloccare questa tratta e quindi rendere per i centri di vivisezione sempre più difficile trovare animali su cui sperimentare. In particolare la campagna Gateway to Hell è una campagna che esiste da diverso tempo, in particolare nell'ultimo anno e mezzo ha ripreso ad essere in piena attività ed ha conseguito davvero un sacco di risultati. Sono circa 20 le aziende aeree che negli ultimi due anni più o meno hanno deciso di smettere in seguito alle proteste di trasportare animali per la vivisezione, e questo rende oggi il ruolo di Air France KLM e di un'altra azienda cinese che si chiama China Southern, le ultime due aziende aeree commerciali a trasportare animali per la vivisezione, le rende oggi importantissime. Fermare loro significa

e purtroppo non mette in discussione lo sfruttamento animale. La Francia, a quanto pare, non è ancora pronta ad affrontare la questione animale nella sua complessità, così come gli altri paesi europei, peraltro, che convivono tuttora con l'affermazione contenuta nel Trattato di Lisbona, un testo paracostituzionale che afferma la necessità di tutelare gli animali non umani in quanto esseri senzienti, e con una prassi legale di sfruttamento e massacro di massa di questi stessi esseri senzienti. Quel che forse sta avvenendo in Francia, e che ancora in altri paesi, a cominciare dal nostro, al momento non si vede, è l'avvio di un dibattito sulla posizione reale degli animali nella società. Lo ha spiegato bene Jean-Marc Neumann, giurista e vicepresidente della Fondazione Animali, Etica e Scienza. La frase approvata dal Parlamento, ha detto, è meramente simbolica e non deve essere concepita come un punto di chiusura della discussione, bensì di avvio di un dibattito sulla questione vera. Si tratta di sapere in che società vogliamo vivere. Una società che intende proseguire nello sfruttamento degli animali o una società che è pronta ad affrontare certi sforzi e sacrifici a vantaggio degli animali? Abbiamo bisogno, dice Neumann, di un dibattito sociale e di una discussione con allevatori, cacciatori, pescatori. Non si tratta di pensare a un cambiamento che arrivi dall'oggi al domani, ma di fissare dei paletti e degli obiettivi, fin qui Neumann. Ma in un mondo che cambia, con un modello di sviluppo che pare agonizzante e che soprattutto sta compromettendo le condizioni di vita di larghe zone del pianeta, è lecito pensare che la questione animale sia destinata a far parte di quel dibattito sociale che dovrà necessariamente correggere questa rotta. Sempre che vogliamo, e che sia davvero possibile, cambiare un corso delle cose che promette disastri e ingiustizie crescenti. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Aldo Capitini, nato nel 1899 e scomparso nel 1968, è noto come il filosofo della non violenza. Influenzato dalle idee e dalle esperienze del Mahatma Gandhi in India, portò il tema del pensiero e della prassi della non violenza nel nostro paese, all'interno di una visione filosofica e religiosa però del tutto originale. Antifascista, uomo di spirito religioso ma anticlericale, combatté la gerarchia cattolica per le sue dinamiche di potere, per la sua lontananza dalle persone e per i suoi limiti teologici. Per Aldo Capitini la non violenza era un movimento rivoluzionario, partiva da una non accettazione della realtà così com'era. La non violenza era una prassi per il cambiamento sociale, nella direzione dell'uguaglianza, della fratellanza fra le persone e fra tutti i viventi. Fu anche un critico, se vogliamo, della democrazia parlamentare rappresentativa. Riteneva che si dovesse allargare sempre lo spazio della partecipazione e perciò coniò il concetto di omnicrazia, la democrazia di tutti, il potere di tutti. A questo fine fondò i centri di orientamento sociale e anche i centri di orientamento religioso che servivano a facilitare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica e a quella religiosa, intesa questa ovviamente in un senso non istituzionale, non clericale. Capitini fu un pacifista, ma anche qui in modo originale. Al pacifismo di chi sostiene «se vuoi la pace, prepara la pace», in contrapposizione al realismo e al pragmatismo corrente del «se vuoi la pace, prepara la guerra», Capitini preferiva un altro motto che potremmo riassumere così: se vuoi la pace, prepara la liberazione. La rivoluzione non violenta per Capitini è la rivoluzione dei persuasi, delle persone che raggiungono un'intima convinzione di autonomia dal potere, di empatia verso gli altri e verso tutti gli esseri viventi. Il contributo di Capitini fu fortemente originale e anche poco compreso, e vogliamo qui proporvi un brano nel quale Capitini affronta il tema del vegetarianesimo e quindi la questione animale. Capitini era un convinto assertore della necessità di agire, di pensare, di comportarsi secondo una logica di apertura verso l'altro. Uno dei suoi concetti forti era l'idea di unità amore, quindi una attitudine a sentirsi parte della vita dell'altro, a sentire una comunione di intenti, di fini, e quindi l'idea che tutti gli esseri viventi dovessero essere concepiti come un fine e non come un mezzo. Nasce da qui l'attenzione di Capitini alla questione animale, ereditata in parte da Gandhi, in parte dal movimento animalista e vegetariano britannico. Capitini fu il fondatore della prima società vegetariana italiana. Il suo pensiero anche su questo fronte è stato davvero quello di un anticipatore, se pensiamo agli sviluppi odierni dell'antispecismo, che a Capitini normalmente non fa un riferimento diretto, ma che attinge magari poco consapevolmente dall'eredità di pensiero e di azione che il filosofo perugino ci ha lasciato. Vi leggiamo un brano del 30 maggio 1953, intitolato «Anche il vegetarianesimo può rientrare nella liberazione sociale e religiosa», tratto dal libro «Il potere di tutti». Ho detto più volte in queste lettere che la religione è vita religiosa e la vita religiosa è liberazione sociale e religiosa, la quale significa due cose. A. L'inizio di una realtà diversa, liberata dai limiti, sempre più positiva nel bene, concretamente ideale al massimo. B. La presenza di tutti gli esseri a questa realtà, presenza sempre meglio accertata e goduta. Vediamo come il vegetarianesimo, attuato in questa realtà di trapasso, avvicina la realtà liberata nei due significati dati sopra. Il vegetarianesimo è atto di affetto e rispetto per molti esseri viventi che non vengono più sottoposti all'uccisione per trarne le loro carni. Quindi è ampliamento dell'unità amore. Questo ampliamento non è da disprezzare. Si parla tanto dai patrioti di ampliare dalla famiglia alla patria, dagli europeisti dalla nazione al continente, dai mondialisti dal continente al mondo. E perché non deve avere valore un allargamento di attenzione, di solidarietà dal genere umano a tanti esseri animali? Noi ci troviamo in una realtà in cui siamo, al punto di partenza, nella tentazione di essere chiusi l'uno all'altro. E questa chiusura, che è egocentrismo, assolutizzazione di sé, è una delle forme del peccato, detto originale perché sta al punto di partenza. Questo tendere all'ampliamento, a fare tali passi avanti, ci fa sentire un'altra cosa importante, che al bene verso cui andiamo, e può essere oggi una musica, una soddisfazione morale, un giorno di festa, e più oltre la liberazione, noi non vogliamo andare da soli, ma insieme con altri, con molti, coralmente, con tutti. Con l'alimentazione carnea noi sfruttiamo un vasto gruppo di esseri viventi, e li sfruttiamo nel modo più radicale, perché le azioni verso di loro sono tutte volte al fine di utilizzarli stroncando nella vita. Ora, mentre stiamo operando per togliere lo sfruttamento sociale fra uomo e uomo, salendo di un grado verso il rispetto reciproco, è già qualche cosa salire di un grado per tanti esseri viventi, e utilizzarne i prodotti può essere una forma di collaborazione in attesa di altre ulteriori e meno costrittive, ma non distruggerne l'esistenza. Un socialista si sente indotto ad essere vegetariano. Non è una classe subalterna e oppressa anche quella degli animali? La decisione vegetariana, sulla base di interiore persuasione, deve sottrarsi al gioco dell'abitudine, del tradizionalismo inerte, del conformismo, del gusto del piacere. E il vegetariano non trova poi piacere nella sua alimentazione? Questo atto di distacco e di indipendenza, di anticonformismo, ha la radice profonda nella religione che la realtà può svolgersi, aprirsi, trasformarsi. E che noi possiamo andare verso una sintesi di uno e di tutti ad un alto livello. Il mondo in questi 50 anni ha mostrato tanta violenza ed altrettanta è latente. Il vegetarianesimo sarà poco, ma è già qualcosa. È sospendere e dire no a un'inerzia, a un moltiplicarsi di atti violenti, è iniziare un'educazione diversa. Si pensi all'importanza di questo per i giovanissimi, per i fanciulli. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. ha aperto da pochissimi giorni a Firenze la creperie Crepapelle, che si trova in via Giampaolo Orsini al numero 55, poco dopo l'incrocio con via di Rusciano sulla destra. Sara, Paola e Pixel sono i tre protagonisti di questa bella avventura imprenditoriale 100% cruelty free. Siamo andati a pranzo e ci aspettavamo delle crepe molto semplici, di quelle col formaggio fuso dentro o la cioccolata. E invece il menù è molto ricercato, le crepe sono servite in modo impeccabile, stoviglie, apparecchiatura, ma anche l'ambiente, tutto è veramente piacevole. Questo è il risultato finale del nostro raid gastronomico. Quanti anni avete? Io 27, devo farne 28. 29. Io ho studiato scienze politiche, la tesi in scienze politiche l'ho fatta sugli animali e sul vegetarianismo. E appena laureata mi è venuta questa voglia matta di aprire una creperia. Io facevo e faccio ancora caricature ai matrimoni, ai compleanni, per corrispondenza, sì, e animazione, cartoni animati. Come mi sono appassionata? Penso grazie a Sara. Perché fino a 3 anni fa mangiavo di tutto, infatti quando anche ho detto agli amici, ai miei genitori, non voglio più mangiare carne, si sono tutti stupiti perché ero una che mangiava di tutto. Poi guardando lei non mi ha fatto nessun tipo di forzatura o lavoro concettuale, niente. Osservandola mi sono interessata e poi un giorno ho smesso di mangiare carne. Pesce, uova, latte. Da onnivora vegana, sì, in un giorno. Infatti, si sono spaventati tutti. Lei mangia tantissimo e quindi mi ha costretto a imparare a fare tutto. Lei mi ha fatto diventare vegana e quindi mi cucina sempre, da 3 anni mi cucina, da quando sono vegana. Io ho iniziato perché i miei amici continuavano a chiedermi le crepe a casa e abbiamo avuto l'idea di aprire la creperia. Tu già facevi crepe a casa tua? Sì, per gli amici a casa con la padellina e poi avevo preso le piastre. Ma l'idea imprenditoriale, il rischio, il fatto di aprire comunque una partita IVA, di aprire un posto? Sono stata io, sì. Avevo tanta voglia, un anno che cerchiamo un fondo adatto, in un posto anche buono come passaggio di persone. Abbiamo tenuto duro e l'abbiamo trovato. Siamo contente, vero? Sì, sta andando abbastanza bene. Sì. Come mai Crepapelle? Abbiamo un po' architettato anche il nome Crepapelle perché praticamente non avendo latte, non avendo uova, non essendo pesanti, ne puoi mangiare un sacco, quindi puoi mangiare a Crepapelle. Questa era l'intenzione. Non fanno ingrassare come quelle normali, ecco. Io ho cominciato vegetariana perché mi hanno fatto fare una ricerca alle superiori, addirittura a scuola, e sono andata a guardare cosa succedeva agli animali e da quando ho guardato i video su internet non ho più toccato, non sono più riuscita ad andare avanti a mangiare la carne. E poi dopo qualche anno ho guardato anche quelli riguardanti il latte e non ho più toccato carne, latte e uova, basta. Ci sono al muro attaccate queste caricature molto carine che evidentemente ha fatto Sara. Sì, noi abbiamo deciso di fare questa cosa, dare i nomi alle crepe e associare le cose che ci sono dentro ai personaggi. Per questo mese il tema è le coppie a puntino, il prossimo mese cambierà e useremo altri temi. Sandra Raimondo, abbiamo scelto gli asparagi e lo zenzero perché lui è tanto alto e lei è tutta piccantina, no? Mentre poi c'è Staglio e Olly, abbiamo scelto gli spinaci e lo yogurt perché Olly è più forte come gli spinaci, invece Staglio è più pacato e lo smorza un po'. Poi c'è Ellen e Portia che sono moglie e moglie di Hollywood, abbiamo scelto pere e patate al curry perché sono entrambe bionde. E poi c'è Wallace e Mia che sono i due protagonisti di Pulp Fiction, in realtà il nome è sbagliato, l'ho sbagliato io, sarebbe Vincent e Mia. E sono carciofi al prosecco e anice, che è un po' un accostamento particolare. Squisiti, li abbiamo assaggiate questa qui i carciofi, devo dire, una bontà assoluta. Tu cosa hai messo degli studi che hai fatto nel tuo attuale lavoro? Più che gli studi ho messo la mia passione per le poesie, infatti la carta da parati che abbiamo dietro al bancone sono tutte poesie di poeti famosi, più o meno famosi. Quelli sì che segui tu? Sì, quelli che seguo io. E poi c'è Pixel, chi è Pixel? Pixel è il cameriere, Pixel è la mascotte. Lui accoglie i clienti, abbiamo visto una foto su Facebook che cercava adozione da Napoli, siamo andati a Napoli a prenderlo, avevano abbandonato sua mamma incinta con 6 cuccioli e lui era uno dei cuccioli e siamo andati a Napoli a prenderlo a febbraio scorso. Allora, il menù è così composto, ci sono le crepe oppure i fritti barra forno oppure le insalate e poi crepe dolci. Le crepe le abbiamo già illustrate: Sandra Raimondo, Stanley Ollio, Ellen e Porzia, Wallace e Mia. Tra i fritti noi abbiamo assaggiato il tempura, che era squisito, con delle salsine. A che cos'erano le salsine? Allora, una era ketchup fatto da noi artigianale, diciamo. L'altro era mele e cipolle e curcuma. E l'altra era sedano, finocchio e menta. Squisite, veramente da provare. Poi ci sono le polpette di ceci e pere, oppure le patate fritte. Abbiamo provato anche quelle, erano buonissime. Poi ci sono le insalate di tre tipi: Euforia, Ladybug e Gaia, tutte golose. E poi le crepe dolci, quelle di cui parlavamo prima: cioccolato, confettura di mele cotogna, confettura di lamponi, pesche gialle, mirtilli, more, frutti di bosco, fragole, albicocche, fichi, agrumi. E poi ci sono le mini crepe per bambini e le dolci speciali. Le crepe dolci speciali, anche queste verranno cambiate ogni volta che cambia il tema, e c'è la Sour Crepe, che è crema al cocco con banana, cocco in polvere e salsa mu, che è quella zucchero di canna. Poi c'è la bocca di rosa, che è yogurt di soia, fragole fresche, zucchero a velo e petali di rosa. E la crepe in black è quella esageratissima, che prendono un sacco di gente: doppio cioccolato, guarnizione al cacao, cacao in polvere e granella al cioccolato, tutta nera, piena di cioccolato. Sara e Paola vi aspettano in via Gian Paolo Orsini, in un numero non ben identificato, tra il 55 e giù di lì, alla Creperie Crepapelle. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog, che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.